essere quasi 9.20, un pelottino meno 9.20, radio 5, non è eccellente però molto comprensibile. Mi sembra la radio, Claudio. Di intensità microfono, parlo di saturazione di segnale radiofrequenza. Secondo me stai pompando un po' troppo, forse è troppo spinta, ti sta mangiando appena appena la radio. Un po' meglio va. Che è un apparecchio a valvole, adattando un buon microfono, un compromesso migliore, riesce a uscire molto molto meglio. Ti ascolto bene, non posso dire niente, radio 5 è un segnale molto forte, però non è la radio che piace a me, ti toglie un po' di tonalità, non è, c'è un leggero disallattamento tra radio e microfono. C'è anche Fabrizio, io direi se è rientrato, se no vediamo se è rientrato Claudio. Prima Fabrizio, avanti a te Fabrizio. Sì, ci sono. C'è Muros, avanti per Muros per i saluti e poi riprende Claudio. Molto bene, io sono tornato col microfono normale. Va bene. No, mi innesca il, cioè si sente questo rumore col tema più 3, ma sicuramente perché c'è l'adattatore, capito? Lì bisognerebbe fare la connessione per quella radio, ma no, non c'è problema, lasciamo stare così. Ok, va bene, no, stai arrivando bene Claudio, non c'è problema. Avanti Roberto. Sì, questo è l'M43 Plaza. Sì, questo è l'M43. Maria, allontanatelo un po' dalla bocca, così è più fedele la modulazione. Sì, guarda, un palmo sto parlando, un palmo anche di più, dai. No, così va bene, dai. Se sono troppo vicino magari si sente troppo tonalità basse, dai. Vediamo a Fabrizio di nuovo. Che microfono sempre Fabrizio subito? Sì, no, io sto sempre usando il microfono, sempre questo, non sto a cambiare quello lì, sto usando poi per i passaggi che faccio qua, anche vabbè, non è che sta a cambiare, questo uso, questo ciò e questa radio sto usando. Secondo me avevo una mia intenzione di però al momento va bene così, dai, ho altre cose in testa, aspettando lunedì, martedì massimo e poi decido cosa fare. Ehi, a quella taglia c'è in fotografia, non ti sei mai provata, dai, come esce? Quale? Quella che c'è nella foto che mi ha mandato il microfono adesso. Ti ho mandato una foto del microfono. C'è una radio, diciamo, di un certo livello, di altissimo livello, non un certo, e davanti dietro il microfono, andiamo al microfono di quello da studio, c'è una radio sub, guardate. È 5.000 che dice? È 5.000. E quello è quello che usa in HF, l'altro 9.000 ce l'ho in scatola e che non ci stava. Sì, questo è il 5.000, l'avevo comprato 2 anni, fermo in scatola e mai usato, quindi l'ho montato l'anno scorso. No, ho detto, se l'hai mai provato in 27, a livello di curiosità come esce? Ma, no, diciamo sì e no. Sì, l'avevo provato, già non esce male, ma con questo microfono dovrei mettere forse altro microfono, perché questo è tratto, cioè, non mi ricordo, stavo facendo le calcole anche la M, deve essere il parametrico, non me ne ricordo. E con quello ti puoi giocare, cioè l'equalizzatore parametrico puoi fare quello che vuoi. E 9.000 pure c'è, bello, bello, cavolo. C'è anche 9.000 hai detto? Sì, anche 9.000, ma ce l'ho in scatola perché non ci stava prima, per 9.000 ho voluto usare questo, l'ho comprato 2 anni e mai usato, allora l'ho piazzato, vedete che me lo piazzo al posto del 9.000. E 9.000 è gigantesco, cacchio, è enorme una radio, no. Vabbè, quando finirai i lavori, vuol dire che cerchi un'altra stanza, ti liberi un'altra stanza e ti muovi tutto lì. Sì, quello dovrò fare. Ehi, di nuovo Claudio di Sassari, e con Claudio, dopo di che Claudio di Muro, sono avanti Claudio. Zappagappa, ok, ho ripreso con l'MC60 il numero 1, il numero 1 sempre della serie K. Ok, va bene, allora ragazzi io vi devo lasciare. Devo lasciare perché devo fare alcune cosette e devo anche sistemare il cane, ok? Se ci siete al limite riprendo dopo. Ciao Fabrizio, un abbraccio a tutti, buona serata e buon proseguimento. Ciao, il cambio per Claudio di Muros, io sono qua, K. Di serata, tanto anch'io sono un po' qua e sto aspettando che rientri la moglie e poi anche io mi allontano, tanto nel frattempo comunque stavo facendo un po' di collegamenti in digitale, era passato anche un country che mi mancava, l'ho visto una volta solo, non ce l'ho fatta. Sì, saluto a te, dai Claudio, già ci sentiamo, passa quando vuoi, sai dove trovarmi. Ok, cosa ti volevo dire, avanti Muros, ma provami una radio come piace a me, come ti ho sentito altre volte, Claudio di Muros. Buonasera. Tanto. Dico una cosa e poi facciamo entrare Antonio che entra. Era curioso sentire il grande, quello l'ultimo arrivato. Avanti Antonio, buonasera, in compagnia mia di Claudio De Muros e di Fabrizio. L'altro Claudio Spalviero abbandonato perché aveva probabilmente mangiare. Avanti a te Antonio. Capo, buonasera a tutti, buonasera. Antonio a questa. Unieva oggi, tra. Oggi, stanotte, oggi non più di tanto, ma alle 2 del mattino, ecco, mamma mia, ha bagnato un po'. Se amici miei che vi capitano a bancare, hanno dovuto fare tutto un giro, dove c'era la centrale elettrica, c'era la macchina che arrivava l'acqua allo sportello, non si poteva passare, ha dovuto fare tutto un giro dall'altra parte perché non non si poteva attraversare. Ok, di nuovo a Fabrizio, che poi farà girare per Antonio, mio Antonio, per Claudio D'Amuro. Forse Fabrizio si è allontanato. E come va il 27 quel giocattolo grande, Claudio? Andando e tornando, andando e tornando, alla fine ti esce il fumo d'attesa. Salutamelo tanto, quando vuole entrare, quando è più fresco di stanchezza, fallo entrare, se mi piace risentirlo. Di nuovo a te, Antonio. Capa, se lavora solo d'estate, lavora, non so. Però purtroppo noi tutti esseri dobbiamo fare qualcosa per mangiare. E quindi bisogna lavorare. E adesso iniziano gli scuolabus e fa anche d'inverno. Papà, così è. Così è. Cosa vuoi fare? Purtroppo è quello il lavoro. Bisogna portare i soldi a casa, bisogna portare. Poi quando se ne andrà in pensione, manda quel paese a tutti. E già Rugredo già li tocca anche a lui. Dai. Ok, di nuovo a te Claudio, quindi c'è solo questa radio in camera tua. Thank you. lei già ne ha uno o due di questi apparecchi già. Tutto pieno, sì. No, io non ho posto per tenere questa roba. E poi già mi basta, e canto uno dei papi apparecchi. Oh già, ne ho quattro, ne ho. A voglia che basta. Spero che non sono per niente. Questa è alternata qualche condensatore. C'è qualche problemino, si sente fortissimo il rumore di alternata. No, adesso è a posto, nessun problema. Una domanda, quella console dove c'era tipo computer che ti avevo detto io, la stai appoggiando lì, la stazione quella che utilizzi o la roba di tuo padre c'è in quella? C'era anche Fabrizio poco fa, l'avevamo chiamato, forse si era allontanato, vediamo se è rientrato, se no riprendi tu Antonio. Avanti Fabrizio. Sì, ci sono, sono in ascolto, vabbè. Non volevo fare maleducati, poi ti ho detto, sono in digitale, poi ho detto, forse si è allontanato, stavo facendo qualcosa, dai. Ok, riprendi quando vuoi Fabrizio, non c'è problema. Sì, no, io mi sto ascoltando, dai, tanto c'è una compagna in ascolto, che sta aspettando che rientri. Mia moglie, sono qua, dai, li sto ascoltando. E io, no problema allora. Quindi sei collezionista pure tu che non supera la Walter, che sono geloso, Claudio. In assoluto di quelle immagini, proprio una spettacolare, con uno sciure usciva che era una meraviglia. Anche adattando lì un MB più 5, cioè o più 4, magari non andrà male neanche. sì, poi naturalmente anche le corde vocali contano, magari per il tipo di voce tua magari sia andata meglio un altro che rispetto a un'altra persona. Comunque devi fare delle prove, poi a quel punto uno poi ti dice guarda ti sei adatta più questo perché la tua voce è più naturale rispetto all'altra che magari è più carica di tonalità o alte o basse. Comunque se l'ho ascoltato io non con questo, con un'altra radio, col somma che è riuscito a trovare il giusto compromesso, è uscita la voce molto molto naturale, pulita, chiara, senza grosse imperfezioni, per cui ti ho detto quello era il tocco che avevi raggiunto. Adesso qua, se ti piace la radio, fai delle prove e vedi un po' di abbinare il microfono che lì si addice più di tutti. Di nuovo a te Antonio. Ciao, io ce l'ho l'MB+4 e non esco male, la verità. Già va bene. Secondo me molti li modificano, li fanno un sacco di cavolate, li fanno, ma quello se ha le corde vocali a posto esce bene così, esce, non c'è bisogno di modificarlo. Sì, naturalmente, poi certo dipende anche dalle persone, dalle corde vocali, qualcuno che ha la voce stridula magari la troppo acuta, ma in massima già si addice. Io ho un patch che gli avevo messo il timer della volta sua, timer più 3, infatti tutti me l'hanno vantato tante volte, detto, questa è una bellissima modulazione, proprio bella pulita chiara, e ho visto l'altro giorno c'era negli Stati Uniti, stavamo vendendo uno a $980 e l'altro a $900, uguale identico al mio, ho detto cacchio sono un sacco di soldi, cioè considerando con questo ti compri un HF di un discreto dai più che buono, e lì c'è una grossa valore c'hanno quegli apparecchi, non pensavo avesse così tanto. Io l'avevo pagato €110 quando me l'aveva fatto prendere Claudio, il mio nuovo perfetto. E ho visto negli Stati Uniti, cacchio, ce n'erano due, uno a 900 e l'altro a 980. Facce base 81-93, siamo un amplificatore audio, tutto in alluminio spesso, c'è un sacco di funzioni, c'è funzione nel senso un sacco di manopole, ne ha 3, 6, 8 manopole sotto, sembra proprio un amplificatore domestico, diciamo, per ascoltare, per amplificare la musica, quello che vuoi tu. Poi c'è il manopolone grande, per il cambio canale c'è l'orologio, fa le bande laterali e ti posso dire poi c'è il modulometro e il wattmetro, tre strumenti, c'è l'orologio, il timer per impostare, è nuovo, poi c'è il Royce, però sinceramente con Royce l'ho provato solo col microfono suo originale e non era un granché, è nuovo, fiammante lo stesso, e poi c'ho il mio prediletto, il Multicom base della Intec, quello è il numero uno, il migliore del baracchino che è in assoluto, c'ha una ricezione, una sensibilità da paura, molto molto meglio di altri apparati ben più costosi ed evoluti. Più vai più storici sono un radio minimo che hanno 40 anni quelle lì, una cosa anche 60 ne hanno, no? Il patch mio non è a pannelli laterali, cioè presente tu un amplificatore di quelli degli anni 80 della Pioneer che sono col pannello frontale in alluminio o la CAI, li patch li faceva, ma insomma un amplificatore dove è tutto in alluminio e il coperchio nero, c'ha tutte le manopole cromate, anzi non sono neanche cromate perché sono in alluminio lucidato, infatti il pannello è in alluminio satinato, c'ha tre strumentini, ecco, sporco, sembra un amplificatore per casa, diciamo, per la fedeltà. Ma italiano era come apparecchio? No, la pace è americana, la chiamava pace, però Pace il nome esatto, si pronuncia Pace, è un apparecchio americano che ne ha fatto milioni e milioni, perché pace 123 c'erano i baracchini, quelli veicolari, ne ha riempito tutto il mondo, è stata penso una di più di tutti insieme alla CTE che ha fatto più apparecchi di tutti, di cosa? La CTE International, la Intec, la Royce, ne hanno fatto una marea. i primi apparati sono stati loro, perché in Europa non c'era niente, poi sono venuti anche gli altri, hanno iniziato a farli anche gli altri marchi, però parliamo agli albori della cosa, della radio in Italia, i primi baracchini sono usciti negli anni 70 quando si hanno liberalizzati, perché prima solo radioamatori potevano utilizzare, e dopodiché hanno iniziato a fargli anche qualcosa in Italia, a fare qualche apparecchietto, ma era tutta roba americana, perché in America dal dopoguerra li utilizzavano dagli anni 50. Quello mio io penso che sia degli anni 70, perché c'ha l'SSB, non c'ha neanche la bandiera TME, la FM non esisteva. Cappa, è sicuramente così. Ma cosa porta un po' che in Italia, l'azienda italiana pare sia la Intel, la Midland ha venduto tantissimo, gli anni 80 e 90 e anche dopo. Marco, non so se sei tu, però ti stavo mettendo la portante. Ah, un cretino, Ti è passato, Marco. Ah, non so perché è così cretino. Ecco, ti ha passato tanto, c'è un segnale tuo e non ti fa parlare. Adesso mi hai rotto le palle. Aspetta, devo scaldare un po'. Ma con cosa sei tu, Anto? Con il K. Cazzo, c'è un segnalone qua, questo. Sì, fammi cagli in fallo. Ti passa, roba. No, a te non ti passa, però è 9.30, mi quasi. Fate da te, Claudio. Noi lo passiamo io e Claudio. Chissà, gare, non siamo ancora riusciti a capire. Allucinante. Ma passare l'altro ne arriva a 9.30. Anche qua lo passa, cosa vuoi dire? No, non lo so, non mi voglio far passare la testa, me l'ha fottenuto. Mi saluto con la cera di nuovo. Ciao. E aspetta quando attacchiamo il giocattolino e riusciamo a trovare tutti. Ma è muove da attaccarlo, però, perché veramente continua a dire che è vergognoso, io non può entrare a farsi due chiacchiere, io vedo sempre il imbecille. Va bene, dai. Ok, Claudio, avanti a te, Claudio di Muros. Ciao Claudio, ben sentito, sempre un piacere. Quando vuoi siamo qua su questo canalino. Ok, poi quando c'è tempo mi avvisi e mi fai sentire il giocattolo grande, sono curioso di sentirlo. Saluto a casa a tutti, babbo, mamma e tutti quanti. Ciao ciao. Ciao, Claudio Muros, aspetta che sta. Guarda che cazzi che arriva il giocattolo grande. Tanto per curiosità, quando ti arriva a te? Sempre il solito segnale. Cosa vuol dire il solito segnale? Come quello che mette sempre la portante. Sì, ma 9.30, 9.40, tanto. 9.15, 9.20 quasi. Ma io e Claudio ce lo passiamo, sì. Campa che l'ho passata, beh, fammi via anche lo culo. Ma com'è? Ti disturba ancora, lo passi di radio, ma ti disturba. Ma non ce la fa, lascialo scaldare bene, lascialo. Vai, rompimi le palle. Ora. Ecco, deve scaldare. Ma è qualcuno che non esce di radio, cosa vuoi ti dica? Qualcuno che sta provando apparecchi e che non sente, cosa vuoi ti dica? No, è uno stronzo, Beh, ce la faccio adesso a passarlo. Sì, lo passi di radio, però ti ripeto, ti do grande fastidio. Cappa, lascialo scaldare bene, lascialo. Questa è valvola. Cappa, è troppo tanto, vai, vamos che sta salendo. Vediamo qua se c'è qualche un altro su questo canalito. Avanti sul 10 che vuole entrare. Cappa. Cavolo, a me non mi piace attaccarlo, però quando mi ci rompono le scatole. Vai bello, vai che sta salendo di brutto. Lasciatevi la me, tanto cosa ti dico? Cosa? Ponte non so se a me malattia mettere, non lo so, spero di no, che io non faccio male a nessuno, che sono bravo. Non ce la fa passare, non ce la fa passare. Però se ti ripeto si disturba parecchio. Ma guarda che ti sta aumentando di brutto adesso. E a te ti aveva 9.15 questo segnale. 9.15 così. È strana la situazione, perché a momenti sale, a momenti scende, a momenti è 9.20, poi sale a 9.30. VVT a 1100 VVT, ma non piglia paura pure a me. Va bene, dai, non c'è tanto, sale a parlarci sopra. Vediamo un pochettino se c'è qualcuno che vuole entrare. Non benissimo, dai, riprendi tu, Anto, io qualche minuto e poi devo staccare le comunicazioni. Geloso è mongolino, perché una persona non può essere, è geloso di me, capito, ma poi anche di qualcun altro. Non lo so, non è idea di chi sia, non mi viene nessuno in mente, non posso verificare, vedo solo che un segnalone è forte. È forte. Vai, guaccio, vai. Gappa, gappa. Furto. Lo sai cos'è? L'ultimo respiro di casa sua, Lui si è salito a 9.35, tanto. È un bastardo di merda, vabbè, altro, tra di notte, più ti arrabbia e peggio è. Allora, qui è con filosofia, io dico, se c'è qualcuno che non sta uscendo di radio, magari non ci ascolta, non lo sta facendo apposta, se no. Cappa, a 9.35 sono arrivato adesso. Sì, il segnale è 9.25, però come parli ti disturba alla grande. Vabbè, dai. Ma ora va meglio qua. Va molto molto meglio. Adesso puoi giocarti come vuoi, adesso non mi disturbi più. C'ho tutta la potenza, ciò. Sì, no, sarò quasi, però ti ripeto, sotto un pochettino si sente. E secondo me anche lui c'ha qualche giocattolino sotto che spinge. Vabbè, si sentirà poco poco, ma non. Non più come prima, adesso ho tutta quanta la potenza, sto dando il massimo. Ci sarà 9.20 questo segnale, perché non riesco a capire, a te arriva 9.15, a me arriva quasi 9.30, e buh, di che cosa è? A me 9.30, lo passa Antonio. Ah, mi passa a me? Sì, da me sì, Antonio, da me sì, è fortissimo. A volte no, a volte sì, deve essere che aumenta, non lo so. Infatti quello che ho detto io, il segnale sale, poi da 9.20, 9.25, 9.30, è un segnale, non è continuo. Cappa, è un cornuto, ma verrai prima o poi, vabbè, prima o poi il giorno che mi rompo le scatole e prendo un 600 watt, poi voglio vedere se gioca ancora. Tanto volevo dire che a buh, non so cosa dire io. Ma c'è un segnale qua, io non lo vedo a serie, quindi sicuramente c'è una bella apertura per me. Qui c'è 9.20, un segnale ottimo, per carità. Fortissimo, sei uno dei più forti che mi arriva da Sassari, però questo è 9.30. Veramente c'ha il parco. 9.30 anche qua. Ma la Fabrizio non mi passa, non ti preoccupare. No, qua non c'è nessun problema. Ma tu sei 9.50, sì, con l'altro apparecchio, tipo immaginare, tu lo. Non è che lo calpesti, no? Oltre. Sì, perché a frangere ci vuole poco, tanto è gente che c'è l'antenna sul tetto, non è che ci vuole molto. È un guascio, Allora attacchiamo i giocatori, non poi riusciremo a capire di che si tratta. Cappa, come ti arrivo lì, nelle zone tue, Fabri? Un bel forte. 9.50 mi pare, fai? 9.3 prova. 9.45. Va bene. E Fabri, quando ti arrivo per curiosità? Vai? Prova radio, canale 10, 27.075. Più o meno come sta arrivando Momo. Fate tutti e due a vedere. Attenzione, mi senti Fabrizio. No. È uguale il segnale. Questo è 9.50 da me, Fabri. Più o meno anche voi tutti e due, un po' di meno, però siete avete lo stesso segnale. Lui gli saranno un po' di vitamina, e quante ne saranno tanto? Un bel. È lo stesso identico segnale. che noi siamo abbastanza vicini e tu Fabri, in aria saremo penso un chilometro e mezzo, forse neanche. Sì, sì. Ma neanche io sono tanto lontano. Sì, no, è molto deficiente, ci vuole poco a trovarla. Ascolta, adesso mi sto spostando. Gappa. Ok Fabri, non c'è nessun problema. Vediamo se qualche altra persona vuole entrare sul 10, ancora qualche minuto per me, poi fine delle transmission, avanti 10 che vuole entrare, forse c'è qualche temporale in zona, sento scariche di brutto. Ma no, lo sai che le sento pure io le scariche? Ma di burro, non so cosa sia, ci deve essere lontanata qualche temporale, speriamo non fosse a danni. Oggi ieri notte l'ho spaventato perché c'avevo tutto attaccato, perché se mentre un fulmine mi distrugge tutta la stazione e mi fa migliaia di euro di danno, infatti ho detto speriamo bene, ogni tuono ieri notte. Pensa che io ero più cagato di te. Antonio, lo so, a te ti dispiace, ma a me c'è un pochettino di roba e mi disintegreggia, tutto fatto con tanti sacrifici, anni e anni di sofferenze, diciamo, se me li brucia sono tutte collegate alle antenne, no? Non c'è niente staccato di lì, entra di fare un danno, mi fatta vedere a Fabrizio cosa gli aveva combinato, a Giumai riprende il fuoco, a Giumai, gli ha preso il fuoco a casa, no? A Giumai. No, io sono cagato che c'è sotto il petto qua, c'ho l'antenna sopra dove dormo io. Ma intendi, ma ormai io stacco sempre tutto. Dai che ti abbronzo, almeno tu. Mio mare che è tutto in legno e ho qui sotto. Ok, dai, già si è calmata la situazione, mi pare almeno, dai. Sembra di sì. La minaccia di qualcuno ha fatto effetto, dai. Si crede furbo qualcuno. Dai, io la vedo sempre con, la prendo con filosofia, dai, la biglio come uno scherzo, dai. Qualcuno che si diverte così, ma tanto tu ti arrabbiaggi troppo, futti dinni, te lo metto sempre, fregatene, prendi un divertimento e poi se c'è qualcuno che si diverte così, prendiamolo per quello che è. Cappa, cappa. Tanto mangiare non tornerà la radio, finché fosse un posto di lavoro e ti disturba per il lavoro, tanto quanto. Questo è un diversivo, io ho sempre detto così. Quando si esagera poi spengo tutto, ciao, arrivederci. Non so. Capo, le mani mi sta riscaldando, la mazza di nevaria. Certone che con le volte non c'è a scherzare, ti bisogna scaricare qualche migliaio di volte e ti incenerisci la mano. Vai, finila! Ma c'è chiuso bene il coperchio? Già non credo, gli amare che ne venga. No, perché qualcuno magari si dispiace vedere le valvole accese e negava un coperchio, dice così raffreddano meglio. Se ti avvicini appena appena e tocchi qualche cosa, ti fumi, sono migliaia di volte lì. Ogni amare di venga, chi so gozzo, non mi portava nessuno, ma è l'umile di tutto, quindi che ce l'ha portante. Però va bene l'inverno, quando c'è freschetto accendi quello e ti fa la stufa, ma d'estate c'è troppo caldo, non va bene, Antu. Ecco qua, disciugando, va. Sì, eccolo qua. Antu, Fabri, Antu, mi confermi che arriva 9 più 15 a te? 9 e 20, 9 più 15. E muro su quanto ti arrivava? 8. Vabbè, comunque, hai visto che lo ascolti prima, anni fa, non riusciva a sentirlo a muro, solo quelli in alto li ho ascoltato, no, qua arriva forte, quasi 9.20 era. Vabbè, ma c'è una posizione completamente diversa. No, non sto criticando, però dico, ti ricordi quando eri giù all'alta noce, giù ma non riuscivo neanche a sentirlo, adesso già 8 è tanto. Ah, poi lo sentiva Santiago 3 nella sua postazione, ma io manco per sogno. Non lo so. Chi conta, ricordati sempre, è sempre l'antenna, puoi avere tutto l'apparato più bello del mondo, ma se non è un'antenna efficiente non verrà nessuno a parte. Ma modestamente nel mio piccolo va bene. Ah, ma io te l'ho detto, non perché ci sei tu, l'ho detto anche ad altre persone, Antonio mi meraviglia per dove è messo, per come esce e ascolti pure, perché il calciatore storico non è che sia la zona ideale, che sia in mezzo a tanta bordello di coso, palazzi, grattacieli e cose varie, se in un fosso rispetto a per dire all'altezza, come posso essere io e Fabrizio che siamo molto più in alto. Vabbè, se ero stato più in alto come voi, tranquillo che pure io avrei avuto la mia, avrei avuto la dire. Già un grido. Ok, beh signori, io vi saluto a tutti, saluto a te Antonio, Fabrizio c'è ancora in ascolto, anche l'amico che ha messo il segnale che non stava uscendo, saluto cordialmente, dai, saluto a tutti, alle prossime, io vado a fare altre cose, ciao ciao, cuoretti da parte mia. Ciao ciao, ci risentiamo, ciao ciao.